Capitolo 29 del Kitzur al comma 17, Seif Yudzain, qui siamo arrivati, e, sempre per ciò che riguarda i rapporti interpersonali e l'interazione tra le persone, dice così: Asur le Adam le vayesh et chavero, è vietato umiliare un'altra persona, ben bedibur, sia solo con la parola, ben bemase, e chiaramente anche con gesti. Bechol sheken barabim, tanto più se lo si facesse in pubblico, cioè tutto ciò è vietato anche in privato, a maggior ragione è ancora peggio se lo si facesse in pubblico. Veamru zichronam livracha, dissero i nostri maestri, che la loro memoria sia di benedizione, Hamalbin penei chavero barabim, colui che fa impallidire il volto del prossimo in pubblico, en lo chelek laolam abba, non avrà diritto al mondo futuro. Od amru zichronam livracha, dissero inoltre i maestri, Noach le Adam, sarebbe meglio per una persona, le hapile tatzmo li kivshan ha'esh, di farsi buttare o di buttarsi in una fornace ardente, ve agli albin pnei chavero barabim, piuttosto che far sbiancare in pubblico il volto del suo prossimo. Shenemar, dove troviamo una fonte per una cosa così forte? È scritto riguardo la storia che abbiamo letto poco fa nella parasha, poche settimane fa, di Yehudà e Tamar, che Tamar era rimasta incinta da Yehudà. Lui non sapeva che fosse lei, perché lei aveva nascosto il proprio volto. E allora hanno detto poi, ecco che la nuora di Yehudà è incinta in maniera illecita, è diventata incinta. E allora la regola lì, all'epoca, in quel luogo, era che doveva essere uccisa. Allora l'hanno presa per fare questa sentenza. Hi muzet. Mentre lei usciva, Vehi shalcha el chami ha mandato a dire al suo suocero, a Yehuda, Leisha sherele lo anochi hara, io sono incinta all'uomo a cui appartengono questi oggetti. Non ha detto a chi, ha detto all'uomo a cui appartengono questi oggetti, perché aveva lasciato degli oggetti da lei. E non ha assolutamente detto chi era la persona, per non farlo umiliare. Ha detto una allusione: se lui volesse ammettere, allora ammetterà la sua colpa e lei sarà salvata. E lei ha dato a lui lo spazio anche di non ammettere la sua colpa, ed era pronta anche ad essere uccisa, perché se lui non avesse ammesso, lei sarebbe stata uccisa. Velo amralo beferus, non gliel'ha detto in maniera esplicita, e la beremes, bensì in maniera allusiva, im yode, yode, se ammetterà, ammetterà, vim lav, e se non ammetterà, lote farsemo, non sarà lei che renderà pubblico il suo peccato. Per questo le fichach, perciò, tzaricha adam li izaher meod, per tutto ciò che abbiamo detto, ogni persona deve fare molta attenzione, shelo le vayesh et chavero barabim, di non umiliare un'altra persona in pubblico, ben katan, ben gadol, che sia un adulto, che sia un bambino, ve lo yikrauto beshem shehubosh, e non chiamare una persona con un nome che la persona non ama, un soprannome o un modo di essere chiamato che gli fa provare imbarazzo, non lo chiami con questo nome. Ve lo yisaperle fanav, davar sheubosh mimenu, e anche non raccontare o dire cose che potrebbero mettere l'altra persona in imbarazzo, allora non raccontarle o non dirle davanti a lui. Cioè bisogna prendere molto molto in considerazione il sentimento di un'altra persona. Se però la persona ha peccato nei suoi confronti, vim chatak enegdo, viu tzarich leochicho, e lui per la stessa regola della Torah deve dirglielo, deve dirgli: guarda che hai fatto questa cosa che Non dico infastidisce perché è un fastidio, allora puoi togliere il fastidio, però proprio una cosa negativa che ha fatto contro di me e vorrei che tu lo aggiustassi o mettessi a posto, allora anche in quel caso glielo deve dire, però lo yachlimenu, senza farlo vergognare e senza metterlo in imbarazzo, se ne è mar come detto velo tisa alav het, non caricarti di un peccato per colpa sua. Solo perché lui ha peccato nei tuoi confronti non vuol dire che tu devi anche fare un altro peccato e vai a mettere in imbarazzo una persona, come abbiamo visto che è un grave peccato. Quindi devi farlo in una maniera diversa. Bamed varim amurim. Questo, ciò che abbiamo detto ora, riguarda il caso che il peccato sia stato nei tuoi confronti. Quindi lui ha peccato nei tuoi confronti. È un peccato bein adam la chaverò, tra uomo e uomo. Tra le persone, aval bedivrei shamayim, ma se la persona ha peccato in una questione che riguarda il cielo, cioè non nei miei confronti, ma nei confronti di Akadosh Baruch Hu, imlo chazar che shochicho baseter, cioè se una persona si comporta in una maniera che fa un chilul Hashem, che si chiama profanazione del nome di Dio, un comportamento non idoneo, e lui gliel'ha detto in privato, guarda che dovresti non fare così, e non ha dato retta, allora machlimino tobaramim, allora il Bet Din, i maestri della generazione avrebbero il permesso di, appunto, al pubblico, metterlo in imbarazzo al pubblico, umme farsemim cheto, e comunicare al pubblico la sua mancanza, il suo peccato, umme harfimo tobefanav, un mevasino, un mecalerino, to aci achzor le mutav, e lo si gli si fa, lo si mette in imbarazzo e lo si disprezza, gli si augura del male addirittura, fino a che non faccia ritorno al bene. E in questa maniera, Moshe Asukola Nevim di Israel, come hanno fatto tutti i profeti con Am Israel, quando Am Israel peccava, in particolare con la Avodah Zarah, ma anche altre cose. Allora apriamo i libri dei profeti, non vediamo lì che i profeti dicono: ah, sai, sei molto bravo, e qui e lì, no? Dicono molto chiaramente: stai peccando e devi smettere questa cosa, eccetera, eccetera. Con parole molto forti. Questa è una cosa tra uomo e Dio. Ma se qualcuno ha peccato nei tuoi confronti, personalmente, una cosa tra uomo e uomo, allora non hai il permesso di svergognarlo in pubblico, anzi è vietato. E anche quando ci parli in privato, come abbiamo visto, bisogna farlo in una maniera di non peccare a nostra volta, umiliandolo. In questo caso, nel caso invece di cui abbiamo parlato come per i profeti, per un discorso tra uomo e Dio, allora en bo mishum ona'a devarim. In quel caso non si applica il divieto di causare ona'a. Ona'a significa afflizione con le parole, cioè far soffrire una persona attraverso le parole che gli dici. Questo normalmente, come abbiamo visto, è vietato. Ce ne marvelloto nu ishet amito, è scritto nella Torah, non fate ona'a, afflizione con le parole tra uno e l'altro. Upershu rabotenu zichronam livracha, i nostri maestri dicono: amito im sheitcha batora bemitzvot. Amito, colui che è il tuo compagno, significa colui che segue la Torah o le mitzvot. Allora la Torah dice: hizhira Torah lon auto. A quella persona non puoi fare onah, non puoi affliggerlo con le parole. Però colui che va contro la Torah e le mitzvot in maniera pubblica, come abbiamo detto prima, velo alla overa lehem velo chazarbo, e non torna indietro, non si redime le achar sheuchichu baseter, dopo che è stato, anche dopo che è stato rimproverato in privato, belashon raka, e in un linguaggio bello e garbato, allora in quel caso si applica il discorso di svergognarlo in pubblico. Ma di nuovo, per ciò che riguarda il nostro rapporto interpersonale con le persone, questa cosa sarebbe vietata. Nella maniera più assoluta, come abbiamo visto, quanto è grave svergognare o fare umiliare una persona o metterla in imbarazzo in generale, e ancora di più in pubblico. Come ucciderla. Bravo, c'è scritto è come ucciderla, sì. Beh, però scusa Rab, cioè praticamente quando a me fanno, cioè se qualcuno pecca e fa un'offesa nei miei confronti e mi svergogna in pubblico, il mio istinto è quello di rispondere e svergognarlo, quindi Ok, è sbagliato. esatto, cioè quindi Questo l'abbiamo praticamente studiato nella scorsa scorsa lezione. lezione. L'abbiamo studiato. Io c'ho un'altra Cioè, domanda. noi... Sì, No, dica. no, vai, vai. No, No. nel senso che comunque, cioè, ok, però la rabbia non Sì. è facile. Assolutamente no, è molto Controlla, c'è un'altra difficile. lezione, devi Allora, controllare. noi abbiamo studiato, potete sentire la registrazione della scorsa lezione. Il nostro lavoro su questo mondo è di domare il nostro istinto. Cioè, se una persona dice io sono fatto così, siamo tutti fatti così, siamo tutti nati così. Questo è l'istinto base umano. E la Torah ci è stata data, tra l'altro, perché noi potessimo trarre l'insegnamento di e la forza, perché HaKadosh Baruch Hu ci dà anche la forza attraverso la Torah, di piano piano, con fatica, con difficoltà, non è facile. Domare il nostro istinto. Allora, se io vengo messo in imbarazzo e io invece di rispondere o mettere a sua volta, a mia volta quell'altro in imbarazzo, me ne sto calmo o me ne sto tranquillo o comunque guardo dall'altra parte per non arrabbiarmi, ho fatto una mitzvah. Questo è quello che l'Halakha richiede da me. Che lui abbia fatto un peccato, HaKadosh Baruch Hu è il giudice. Io quando mi arrabbio con chi mi mette in imbarazzo, Come avrebbe secondo il Cadosh in effetti è come se, tra virgolette, mi arrabbiassi con HaKadosh Baruch Hu. Oppure, ancora peggio, è come se io fossi HaKadosh Baruch Hu. Io giudico. Per questo c'è scritto che l'arrabbiarsi è simile a fare Avodah Zarah. Uno dice, Avodah Zarah non farei mai idolatria. Però arrabbiarmi è umano. Quindi che rapporto c'è tra arrabbiarsi e fare Avodah Zarah? Certo, non è la stessa cosa. Certo, non potrai essere messo davanti a un Beit Din perché ti sei arrabbiato e sarà scritto nella sentenza questa persona ha fatto idolatria. No, chiaro. Però noi che possiamo un attimo approfondire, possiamo dire nella profondità della cosa, all'interno dell'arrabbiarsi, all'interno della risposta istintiva, cosa c'è? C'è il io seguo la mia volontà, il mio istinto. Salute, il mio istinto significa chi comanda, comando io. Comando io, allora non comanda Kadosh Baruch Domanda di Will. Hu. È molto facile dirlo, io lo dico con molta facilità, Certo. però non lo faccio con facilità, è molto difficile. Però questo è il nostro compito. Allora, sei stato messo in imbarazzo, sei stato umiliato, magari può anche darsi. Ok? Ci sono situazioni dove da questa umiliazione potrei subire una perdita, magari a livello di denaro, a livello commerciale, magari un altro commerciante dice delle cose del mio prodotto, e allora io subisco una perdita. Ok? Lì si tratta di un danno monetario, non solamente morale. E vai davanti al Beit Din e ti fai risarcire il danno. E esiste anche il risarcimento del danno morale, alachicamente parlando. Non è che non esiste. Qui stiamo parlando non del danno stesso. Se c'è un danno, vai a farti giudicare dal Beit Din, porta la persona davanti al Beit Din e il Beit Din deciderà cosa bisogna fare. Però qui non stiamo parlando del gestire il danno, stiamo parlando di gestire il sentimento. Qui stiamo parlando di halachot, di tratti caratteriali che sono voluti e quelli che non sono voluti. A livello di sentimento, una persona che subisce. Se dovesse subire, qual è la regola? Dovrebbe Girarsi. non reagire nella stessa maniera che è stata Lo la chiediamo nella reazione mità, nei suoi intanto. confronti. Eh? Lo chiediamo nella mità pure questo. Assolutamente sì, alla fine. Nell'Elokai Netzor, subito alla fine della Midah, benissimo. Ok? Quindi Grazie. questo anche riporta alla lezione precedente perché abbiamo anche un po' approfondito lì. L'Halakha continua qui e dice, Yud-Het, 18. Mi shechata chavero kenegdo. Ascolta questa. Se qualcuno ha subito un torto da parte di un altro. Velo razza le ochicho. Cosa abbiamo detto? Che se qualcuno ti ha fatto un torto, tu dovresti esprimere a lui. Non rispondere con rabbia, ma esprimere: guarda che tu mi hai fatto un torto, per favore vedi di riparare la cosa, ok? Se una persona decide, io non voglio, loro zalo chichon, non lo vuole rimproverare, velole da berloclum, non gli vuole proprio parlare di questo, un machal lo belibò, e nel cuore lo perdona completamente. Dice, questo mi ha fatto questa cosa, io gli perdono, non voglio neanche andare lì a tirare fuori la cosa, per me è come se non fosse accaduto. Se ve lo sta mobilibo, se non ha odio nel suo cuore, né rancore, cioè è un sincero perdono che gli dà, harezemi dat chassidut, questa è una virtù, si considera una chassidut, una misericordia, un livello di pietà, una persona pia. Questo la Torah dice lo puoi fare. Lo hikpida Torah el ala mastema. La Torah, perché la Torah ha detto devi dire a lui il problema? Perché la Torah non vuole che tieni odio nel tuo cuore. E quando lo esprimi, allora risolvi e togli l'odio. Per questo la Torah dice devi esprimerglielo. Ma se tu togli l'odio dal tuo cuore e gli perdoni senza che glielo esprimi, allora è permesso. Però questo dice midat chassidut. Midat chassidut normalmente significa è un comportamento che non ci si può aspettare da tutti un comportamento di questo livello. Il livello normale che ci si aspetta è se qualcuno ti ha fatto subire un torto, vai, parlaci. Togli dal tuo cuore, perché è vietato tenerlo nel cuore. Perché poi rimani con l'odio nel cuore verso la persona, o almeno il rancore nel cuore verso la persona. Allora tu la dici no, devi esprimere, devi venire a un accordo, devi risolvere. Se tu riesci a risolvere senza parlarci e sinceramente non avere odio, non ritenere rancore nel cuore, allora non sei obbligato a parlarci. Però questo è un ulteriore livello. Posso? Prego. E se nel caso in cui è un Yehudi? Sì, stiamo parlando di Yehudi, esatto, di questo stiamo parlando. Qua si sta parlando solamente del rapporto tra Yehudi sì, e Yehudi. Sì, sì, certo. Amitech, abbiamo detto. Però tu non hai conoscenza, cioè tu non lo conosci, però ti fa il torto. Quindi non c'è neanche il rapporto sì. che tu vai là e dici guarda tu mi allora, hai fatto questo. Come ti fa il torto se non ti conosce? Te lo fa. E come? Vabbè, tipo commercialmente. Allora devi andarci. Non ti conosce a livello di rapporto proprio magari personale. Però comunque ma tu puoi ricostruire che è stato lui. Non è mica scritto che questo deve essere solo se c'è un rapporto personale. No, però no, ma infatti non volevo focalizzarmi sul torto. Tu non lo conosci. Esatto. Quindi conoscilo. E l'indifferenza. Piacere, mi chiamo Ariel. Però se tu invece come reazione magari tu invece sei indifferente a quello che ti ha fatto e proprio dici vabbè è andata, ok, non mi interessa niente perché tanto ci pensa Hashem a tutte le dinamiche, quindi sì. Va bene così, è come... È quello che abbiamo detto. No, però comunque tu non è che lo vedi, ah ciao bello come sta... Cioè, non c'è scritto qui che devi dire ciao bello. Ma se non lo conosci... C'è scritto qui che se tu non tieni rancore nel cuore, allora non ci devi parlare. Se tu dentro di te l'hai... Se sei sincero nel tuo passare oltre... Sei stato un chassid? Ok? Al numero 19 dice così. Chayav adam leizaher ba'itomim ve'almanot. Per quanto uno deve fare attenzione a come parla con tutte le persone, deve fare ancora più attenzione quando parla con persone che sono ancora più sensibili, e cioè orfani, vedove, Shelloi daber alehem ela rakot, parlare con loro solamente in maniera dolce, inhag bahen minhag kavod, e comportarsi con loro solamente in maniera dignitosa per loro, velo yachivem afilu bidvarim, e cercare di non rattristarli o ferirli neanche con le parole, mipnei shenafshan shfalam meod veruchan nemucha, perché sono persone che hanno un animo molto infelice e uno spirito abbattuto, anche se potrebbero essere benestanti per ciò che riguarda la loro situazione economica, non cambia niente. Afilu almanatosh el melech, anche la vedova di un re, Vitomav e gli orfani di un re, Musarin anu alehem, abbiamo la stessa mitzvah. È una mitzvah della Torah, Shed Neemar, come detto, è esplicita, Kol almana veyatom lote annun, non affliggerete alcuna almana, alcuna vedova e alcun yatom, alcun orfano. Non solo. Berit karat lahem mi sheamar vayaolam. Il creatore del mondo ha fatto un patto, ha stretto un patto con loro. Shekol zman shem tzoakin mechamas, mechamas shenaseh lahem, machamat echamas shenaseh lahem, em nenim. Che qualora loro dovessero pregare a Kadosh Baruch Hu per un male, per una cosa che gli è stata fatta, loro saranno, la loro preghiera sarà subito esaudita. Sheneemar, come detto, Kim tzaok yitzak elai, qualora loro chiamassero verso di me in preghiera, shamoa eshma tzakato, io darò ascolto, esaudirò la loro preghiera. Bamed dvarim amurim, di cosa stiamo parlando? She inautan lezorech atzmo, se la persona lì ha afflitti per un fine proprio, questo abbiamo detto assolutamente vietato. Però se li ha fatto soffrire in qualche maniera diversa, con un altro fine, avali nautam, per esempio, se il maestro ha un allievo orfano e l'ha dovuto disciplinare, che dei le landan Torah, o per insegnare Torah, o un manut, o un lavoro, o lo lichan bederech yeshara, o per farli andare in una via retta, quindi per il loro bene, non per il mio bene, arise mutar, allora è permesso. Un mikol makom, ma nonostante ciò, anche in quel caso, yashgiach lenalam benachat uberachamim gdolim, deve comunque fare attenzione a guidarli con tanta e molta delicatezza, anche in quel caso, sheneemar ki Hashem yariv rivam, è detto nei proverbi, Hashem sosterrà la loro causa, e questo anche se un orfano o solo di madre o solo di padre, fino a quando li consideriamo orfani, stiamo parlando di bambini, non stiamo parlando di adulti, fino a quando li consideriamo orfani, finché saranno in grado di provvedere ai propri bisogni, le proprie esigenze come tutti gli altri adulti, allora fino a quel momento, anche se hanno già superato l'età di bar mitzvah per esempio, comunque li consideriamo per questa cosa yetomim, orfani.